Venerdì 18 è uscito il nuovo singolo No One You Know dei Come On Tigre, che anticipa il nuovo disco di Inediti Scenario. Io do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko direttamente ai Come On Tigre, che sono in collegamento telefonico con me. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, piacere. Ciao. Allora, io vorrei iniziare questa intervista innanzitutto chiedendovi di partire un po' da questo singolo per collegarci anche al nuovo progetto, al nuovo album. Che cosa ci aspetterà il 25 marzo quando uscirà il nuovo album Scenario? No One You Know è stato un esperimento per noi, come gran parte del disco in realtà. È la prima voce femminile con cui collaboriamo. Questa è stato piuttosto bello per noi, è una non in realtà un'amicizia di vecchia data, ma ci siamo incrociati diversi anni fa con Xenia, che è una newyorkese, ci siamo visti appunto a casa dalle sue parti, insomma, e da lì comunque c'è stato una sorta di rispetto reciproco, diciamo così, tagliandola un po' corta. E a un certo punto abbiamo trovato il brano che le calzava bene e siamo tornati da lei per chiedergli questa collaborazione. È nato tutto abbastanza semplicemente. Lei ha scritto le parole, lei ha scritto la melodia della voce e noi ci siamo occupati di tutta la parte strumentale. Poi la sua voce è stata ribattuta dalle nostre e si è amalgamato tutto quanto. È stata anche in parte una chiusura di un cerchio, perché ricordo che scoprimo, ascoltammo per la prima volta, credo il primo disco, no, di Xenia Cabinos, quando stavamo nel periodo in cui lavoravamo il nostro primo album. Era un periodo in cui selezionavamo un po' di ascolti, cercavamo di sentire della musica che ci stimolasse, che fosse interessante. Ricordo che avevamo trovato l'album di lavoro di Xenia e ci aveva colpito moltissimo. Ci eravamo legati parecchio al suo album, per cui è stato molto bello poter collaborare con lei poi sullo Scenario, su questo brano. Saranno contenuti tra l'altro all'interno del vostro prossimo progetto anche i brani Twist into Any Shape e Kids Are Electric. Io vi chiedo se c'è un po' un filo che tiene insieme questo album, su quali sonorità vi siete voluti concentrare e come avete lavorato su queste. No, proprio un filo sonoro non c'è. C'è un filo di contenuti, diciamo il filo conduttore è di contenuti, di pensiero, perché l'album si appoggia visivamente su il lavoro fotografico di Paolo Pellegrin, con cui abbiamo negli anni un po' stretto una collaborazione, ed è un lavoro sull'essere umano. Lui è un fotografo che documenta principalmente le catastrofi poi che succedono nel mondo e che collabora con diverse testate, cerca di raccontare l'essere umano, ma molto spesso poi l'essere umano è invaso non sempre da fatti positivi. Attualmente è a scattare al confine con la Polonia, tanto per capirci. Noi abbiamo cercato di prendere il suo lavoro andando a scarnificarlo un po', identificando le foto che raccontavano un'umanità che comprende anche la gioia e la speranza come punti chiave, per cui ci siamo appoggiati sul suo lavoro, che è pubblicato all'interno del nostro vinile edizione speciale. C'è un libro proprio di una sessantina di pagine con tutta la selezione dei suoi scatti che hanno ispirato il lavoro. E quindi poi i brani sono stati pensati e concepiti sotto questa chiave. Musicalmente, come sempre poi in realtà poi facciamo, la musica si plasma attorno a un'idea. Ci siamo un po' lasciati trasportare dal Sud America in Kids, in un brano come Kids lo senti molto bene, perché c'è una ispirazione al forró, alla musica popolare brasiliana del nord-est, ma poi non è che abbiamo proprio sposato un filone narrativo musicale, ecco, più un pensiero che accompagna il lavoro, poi la musica gli va dietro. in qualche modo. Ragazzi, io vi ringrazio e chiaramente vi auguro una buona fortuna per l'uscita di questo nuovo progetto, di questo nuovo album, e speriamo di risentirci presto. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie.